Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Diciamo che bisogna intervenire subito, non tra qualche giorno. La situazione è intollerabile, non possono staccare l'acqua ai romani. Io sono estremamente preoccupata per i miei concittadini, sono allarmata per quello che può accadere agli ospedali, ai vigili del fuoco se staccano l'acqua. Il governo deve prendere i provvedimenti necessari. Poco meno di un mese fa, con una dichiarazione di emergenza fatta per Parma e Piacenza, ha evitato e scongiurato una crisi idrica come aveva richiesto la cittadinanza. Ecco, devono fare lo stesso anche per Roma. Posso che dire che sono davvero addolorato di questo continuo atteggiamento da parte del sindaco di Roma Capitale, proprietario dell'ente gestore Aceato 2 e sindaco della città metropolitana di Roma Capitale, addolorato di questo continuo e a questo punto inspiegabile e irresponsabile atteggiamento di scaricare le responsabilità su tutti i temi dell'agenda di governo della capitale del paese. 18 e 8 minuti, buonasera a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, che trasloca per qualche giorno in questo spazio, in questo segmento orario, si può dire segmento orario? Sì, dalle 18 alle 20:30, anzi fino alle 20, qualche giorno, perché poi sarà vacanza per tutti, ritorneremo il 21 agosto. Buonasera a me da Alessio Maurizi, ma anche da Andrea Spenuso, Matteo Ramelli, Cristian Goldoni in redazione, Andrea Roccabella in regia questa sera. E avete sentito 800 24 00 24 per intervenire in diretta, naturalmente. Cominciate, se volete, subito a prenotare il vostro intervento. Alessio, ciao, ben ritrovato. Scrive Tonio ancora prima che si vada in onda. Grazie Tonio. Insomma, è già capitato d'estate altre volte in questo periodo che ci siamo noi, ci sia io in onda in questo orario. E allora, avete sentito il braccio di ferro sul lago di Bracciano, insomma. I comuni del lago, Roma, la regione discutono, perché i comuni protestano contro il fatto che Acea, che non è stata in grado di gestire, provvedere altrimenti all'approvvigionamento dell'acqua a Roma, abbia minacciato di far rimanere la capitale senza acqua, avendo come unica alternativa in pratica quella di fare prelievi dal lago di Bracciano, che è sempre più a secco. Prelievi che continueranno anche se ridotti. Sentiamo ancora la Raggi. Anche Acea ha fatto la sua parte, ha immediatamente si è adeguata a quelle che erano le richieste di intervenire prioritariamente sulle reti. Su oltre 5.000 chilometri di reti sono andate già in riparazione oltre 2.500-3.000 chilometri, hanno riparato e sostituito completamente già 50 chilometri di tubature, sono intervenuti sulle perdite, hanno ridotto le captazioni prelievi dal lago di Bracciano da circa 1.800 litri al secondo a circa 1.100. Stanno riparando tutto con una velocità mai vista prima, stanno intervenendo su cose che non erano mai state fatte. Tutelando il lago di Bracciano, perché irresponsabilmente l'amministrazione comunale ha chiesto e spinto per sospendere totalmente la ordinanza che vieta le captazioni, e al tempo stesso ci siamo fatti carico della ammissione dell'ente gestore delle risorse idriche di Roma Capitale di non poter garantire l'approvvigionamento idrico alla rete ospedaliera della capitale d'Italia. Avanti con l'800 24 00 24, a chi attribuire più responsabilità, le responsabilità per questa situazione. A dire la verità, la responsabilità principale ce l'ha il fatto che non sta piovendo, però insomma, il Comune di Roma, la Regione, Acea, chi ha più responsabilità secondo voi? 800 24 00 24 in questo pasticciaccio. L'altro pasticciaccio di cui si parlerà domani in un vertice Italia-Francia è quello di Fincantieri. Macron sta facendo quello che era ampiamente immaginabile. Fa una battaglia su Fincantieri? Bene, queste regole europee lo consentono? Consentiranno anche a noi di avere un atteggiamento uguale e diverso su altre partite. Sapete quanto lavoro danno le aziende straniere in Italia? Più di 1,5 milioni di persone. Cosa vogliamo fare? Le cacciamo via tutte? E poi come lo gestiamo? Col reddito di cittadinanza? Allora, questo non è un kindergarten in cui due bambini si guardano in cagnesco. Questa è una cosa seria, che mette in gioco il futuro delle persone, dei lavoratori, il modo in cui si sta insieme in Europa. E quindi abbiamo dovuto assistere a questa grande crociata sui vitalizi, mentre Macron si fregava di nuovo i cantieri navali, la cantieristica, e piazzava sul piano internazionale la Francia. No, però ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo Povia, me lo fai sentire Povia, perché il tema dell'immigrazione, il teorema dell'invasione, ha finalmente un suo cantore, perché Povia ha rispolverato le attrezzi del cantautore, la chitarra, e è uscita questa cosa qua. Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia, voluta da chi vuole che tu vada via, tu vada via. Immigrazia, immigrazia, immigrazia portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Gli immigrati di domani saranno i nuovi italiani. Immigrazia, immigrazia, pa, pa, pa, pa, pa. No, è un po' oscura, in alcuni punti non si capisce bene il significato, lascia molto all'immaginazione. Poi il finale è stupendo, pa pa pa pa pa pa pa. Vabbè, Povia, uno slogan alla Salvini questo qua. Uno potrebbe anche cambiare mestiere a questo punto, Povia, perché più che una canzone è appunto uno slogan. Ma vabbè, ancora sui vitalizi però, sentiamo qualche voce. Tra poco sentiremo anche un consigliere regionale dell'Emilia Romagna. Io sono disgustato per il livello di demagogia, di cialtroneria, di ipocrisia. Primo, i vitalizi non ci sono più in Italia. Non ci sono. Stiamo parlando di una cosa che non esiste. Ma se fai il lavoro a tempo pieno e hai una professione, tu devi interrompere la tua professione, non c'è niente da fare. E se fai due legislature per 10 anni, salti, perché se hai uno studio professionale che per 10 anni non lavora, salti. Dunque, avere una pensione integrativa, non il vitalizio, ma consentire al parlamentare, sulla base del versamento di contributi, dandogli un aiuto, di avere una pensione integrativa, a me pare un principio di civiltà che garantisce la libertà del parlamentare e che lo spinge a non rubare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. And that time I went and said goodbye. Adesso, cari ascoltatori, vi faccio arrabbiare perché vi faccio sentire le ragioni di Ferruccio Giovannelli, presidente dell'associazione degli ex consiglieri della regione Emilia-Romagna. Buonasera, grazie per essere con noi. Eccolo qua. Che è autore, insieme ad altri ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, di un ricorso contro la legge regionale dell'Emilia-Romagna che ha abolito i vitalizi. Cioè, in attesa di avere un'approvazione definitiva della legge nazionale, che è stata approvata alla Camera, attesa a settembre al Senato, ci sono delle regioni, per esempio l'Emilia-Romagna, che hanno già fatto leggi, Giovannelli, ancora più restrittive per certi aspetti di quella nazionale. Così, per esempio, sulla l'assegno da voi si percepisce solo a 67 anni, non 65, come prevederebbe la legge nazionale. Così? Sì, così. Hanno stabilito che coloro che non percepiscono ancora il vitalizio passano da 60 a 67 anni. Ecco, allora... Adesso poi lei ci spiegherà anche i motivi del ricorso, giusto che spieghi anche queste ragioni, però devo dire, è sempre un po' spiacevole quando si parla di soldi, no? Di stipendi, è spiacevole perché io vorrei, credo, percepire lo stipendio di un parlamentare o anche la pensione come la sua, non so quanto prende, cominciamo, però l'invidia è una brutta cosa, ecco perché poi è brutto. 1200 euro. Oh. Lei non prende tantissimo. Ho pagato 75.000 euro di contributi per 5 anni. Lei adesso prende 1.200 euro o li prendeva prima della legge regionale? No, erano 1.250, adesso ne prendo 1.200. Quindi tutto il taglio si è ridotto a 50 euro di taglio, giusto? Sì. Senta, però ci sono altri parlamentari, altri consiglieri regionali. Lei quante legislature ha fatto? Una. Una. Ci sono altri che hanno fatto magari due legislature che certo. Prendono... anche parecchio di più. 2005, o in Emilia Romagna il vitalizio più grande perché ha fatto tre legislature, 4.900 euro. Ora, comunque, 4.900 euro per avere lavorato, quanto dura una legislatura, quanto durava all'epoca? 5 anni. Per 15 anni. Ecco, 15 anni, una pensione di 5.000 euro al mese. Ecco. Sono stati versati, perché bisogna sempre rapportarlo ai contributi versati. Sì. Sono oltre 230.000 euro di versamenti in 15 anni. I contributi, se le dico quelle che ho versato io, ecco, ci mettiamo tutti le mani nei capelli. Non lo so quanto ha versato lei. Non io lo so nemmeno io. Sì. Io lo so invece. Ha versato, però mi scusi, mi corregga se sbaglio. Sì. Lei percepisce un vitalizio sulla base non di quello che ha dei contributi, cioè naturalmente sulla base dei contributi versati, però con un sistema che se fosse come quello attuale contributivo sarebbe una pensione ben più bassa di quella che lei prende. Ma guardi, non lo so perché c'è una differenza tra i parlamentari e i consiglieri regionali. I parlamentari hanno sempre pagato e continuano a pagare oggi per il contributivo che hanno dell'8,8%. Noi abbiamo pagato il 25% del nostro stipendio. Quindi è molto diversa la situazione. Io le posso dire che come lavoratore dipendente, in 42 anni e 10 mesi che finirò di lavorare il prossimo anno, ho pagato 85.000 euro di previdenza. Per 5 anni da consigliere regionale ne ho pagati 75. Come vede la differenza non è poi così tanta. No, ne ha pagati tanti in pochi anni perché lo stipendio era anche più alto. Sa certo. Perché le faccio tutta questa manfrina? Sì, sì. Perché quando si parla di questo argomento si parla dei diritti acquisiti. Questo di avere una pensione maturata con 5 anni di lavoro, il cosiddetto vitalizio, è un diritto a ma tutti gli effetti, no, secondo lei? Guardi che la mia trattenita di 1.250 euro mensili per i 5 anni che ho fatto non è una mia scelta, era obbligatoria. Se io ho fatto un conto l'altro giorno col mio amico assicuratore broker, se io avessi fatto quei soldi, li avessi avuti, li avessi investiti in un'assicurazione privata, oggi valeva fra i 900 e i 1.050 euro. Come vede, non molto diverso dal vitalizio che io prendo. Investendo 1.200 euro al mese al per 5 mese, anni, lei avrebbe preso una pensione anni, a vita. Lasciandolo lì 20 anni, perché io quei soldi li ho lasciati alla regione dal 95 al 2015. Non è che li ho portati a casa il giorno dopo che ho smesso di fare il consigliere regionale. Quindi in verità occorre sempre fare i conti tra ciò che si è versato e ciò che si percepisce. E infatti la riforma nazionale abbiamo fatto dei conti fatti da un sindacalista della CGIL, quindi non di parte, e dice che con ciò che abbiamo versato noi, i vitalifi col contributivo sarebbero più o meno equivalenti a quello di oggi. Questo è, diciamo, è un calcolo che voi avete fatto e il vostro consulente vi dà questa risposta. Però io le chiedo, tornando al concetto di diritto, si può parlare di diritto? Si parla sempre di diritto, tutti hanno dei diritti, poi si tratta di vedere quanto resistano all'urto del tempo, no? All'aggressione del tempo, perché oggi con il Stato italiano enormemente indebitato, il rischio è che prima o poi non ci sia più alcun diritto. Ma io sono d'accordo su questo. Tutti i settori pubblici hanno tirato il freno, è il vostro momento di farlo, 50 euro non sono molti, perché fa ricorso? Noi facciamo ricorso non tanto per questi soldi, se noi vinceremo il ricorso li daremo in beneficenza, anche perché il titolo della legge è risparmi di spese, non contributo di solidarietà come viene chiesto alle pensioni anche più alte delle nostre, ma è lo spostamento a 67 anni che è contro tutta la normativa vigente italiana, perché in tutti i parlamenti e regioni sono 65, poi è l'incompatibilità del vitalizio nazionale e regionale. Tenga conto che uno non può rinunciare al vitalizio nazionale, quindi se il vitalizio regionale è più alto, perde il reddito più alto che ha e non può rinunciare a quello più basso. E questi motivi per cui abbiamo fatto ricorso sulla legge regionale, che è fatta male. Noi avevamo fatto degli emendamenti e se li avessero accolti e la legge non cambiava di molto, noi non avremmo fatto nessun ricorso. Però sa cosa pensa il comune cittadino che ci sta ascoltando? Che non esisterà mai una legge che abolisce i vitalizi fatta bene, perché chi perde qualcosa ci avrà sempre da lamentarsi. No, io le ripeto, non è il vostro, cioè lei che perde 50 euro al mese. Io sui 50 euro non avrei fatto ricorso se la legge nel suo complesso non avesse quegli altri. Quindi lei lo elementi fa per principio, non per i 50 euro, per principio. E addirittura dice che se dovesse vincere il ricorso i soldi li manderebbe in beneficenza. Però scusi, l'80% dei nostri. Perché? Perché noi vogliamo dimostrare che i diritti si difendono e non si fa una questione di soldi. Per me 50 euro non mi fanno diventare né ricco né povero, ma non accetto che nella regione Emilia-Romagna, che è la regione che Monti definì la regione più virtuosa, presa d'esame e presa ad esempio di tutte le regioni dovevano seguirlo, si vada a intervenire in questo modo solo per anticipare la legge Ricchetti. Non ha nessun senso. Ma quindi scusi, lei paragona la sua condizione di una persona che ha una pensione, un vitalizio, pensione, chiamano per una consigliatura in Emilia Romagna 1200 euro, più una pensione, se non ho capito male, andrà a percepire tra poco? Tra un anno. Sì. Tra un anno. Sì, sì. Non le chiedo quanto prenderà, però. Lo dico io, sarà circa altrettanto. Ecco, con chi invece ha semplicemente la classica pensione, il pensionato, quant'è la pensione minima oggi? Non so, mettiamo 1000 euro. Sì, ho capito, ma scusi, e quante pensioni la stessa INPS paga da 10.000 euro a persone che sono col sistema contributivo, che col sistema retributivo sarebbero più della metà. Allora si intervenga su tutti i trattamenti. Se parla con me, io sarei per intervenire. Della legge Ricchetti, mi ascolti un secondo. La legge della legge Ricchetti è quella di dire che la causa di tutti questi, ma sono solo i 2600 parlamentari. In Italia ci sono 10 milioni di pensioni integrate al 28% dalla fiscalità generale. Allora, o si interviene su tutte quelle. Giovannelli, ammesso che sia giusto intervenire, cosa che sul principio generale lei non mi sembra contrario, allora le ripeto, non ci sarà mai una legge che soddisfa tutti. Questa legge nazionale che è stata appena approvata, no, per esempio. Ce n'è una facilissima, di un articolo. Io la suggerisco da 10 anni, nessuno la vuol prendere in considerazione. È molto semplice. Qual è la pensione minima che noi riteniamo debba essere aiutata dallo Stato perché uno possa vivere, diciamo, 2.000, 3.000 euro? Stabiliamo una cifra. Magari avercene in pensione di 2.000 euro. Vogliamo stabilire 2.000 euro? Allora, lo Stato paga con il sistema retributivo le pensioni fino a 2.000 euro. Tutti quelli che sono sopra prendono la pensione col contributivo. In quel modo lo Stato risparmia e si fa dell'equità. Non si va attorno alle pensioni basse. In Italia ci sono quasi 2 milioni di pensioni pagate con il contributivo, con il retributivo, sopra i 5.000 euro. Perché non si interviene su quelle, solo sui 2.600 parlamentari? Senta, perché però, i prefetti, legga l'intervista, la pagina di ieri di Repubblica, in cui si dice che tutti i redditi più alti hanno beneficiato del retributivo. Non capisco perché solo i parlamentari, solo perché la politica... Potrei rispondere che per anni i parlamentari, no, perché forse perché per anni i parlamentari hanno goduto di privilegi che altri non avevano e quindi forse oggi pagano un prezzo, poi vedremo perché la legge deve ancora essere approvata, per cui non stiamo a preoccuparci per i tagli dei vitalizi che non ci sono ancora. Però Bersani non ha firmato, Bersani il suo ricorso non lo ha firmato, perché? Ma lo chieda lui, io non posso rispondere per altri. Ma lei... Io ho raccolto le firme di 70 persone, le altre che non hanno firmato sono più di altrettante, è chiaro che non hanno ritenuto opportuno firmare, ed è del tutto legittimo, ci mancherebbe altro. Noi abbiamo fatto una scelta non facile, come vede lei anche in questa intervista, nelle discussioni che facciamo anche con i miei amici, però beh, qui che è impopolare fare questo ricorso, però credo che i diritti vadano difesi anche quando è impopolare farlo. Ma lei si sente di sinistra ancora oggi? Sono iscritto al PD, non ho nessun problema a contestare una legge che il mio partito ha proposto nella regione dove vivo e cui io che ho contribuito ad amministrare quando la ritengo sbagliata. Ma essere di sinistra che cosa vuol dire per lei oggi? Per la solidarietà nei confronti per esempio di chi sta peggio oggi? Questo fa parte? Cominciamo da tutti, no? Perché lo devo fare solo io? Io lo chiedo tutti. A lei però, a lei. Io sono d'accordo, tant'è che se mi avessero detto diamo un contributo di solidarietà ai comuni o alle persone che hanno avuto il terremoto nella mia regione, non in un capitolo indistinto di risparmio di spesa, io sarei stato d'accordo. Poi avrei anche detto perché solo gli ex consiglieri, non anche i consiglieri in carica, che prendono almeno 5 volte quel che prendo io. Perché il contributo di solidarietà solo sugli ex consiglieri? E gli attuali? Perché no? Non sono io a poter rispondere a questo, io la ringrazio Giovannelli, grazie per essere stato con noi, Ferruccio Giovannelli, ex consigliere dell'Emilia Romagna, 800 24 00 24, Borsa, torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, al 349-238-6666 c'è chi scrive, speriamo, rivolto a Giovannelli, sia sempre così, di solidi principi anche su altre vicende. La minima, c'è chi si rivolge a me dicendo, la minima è di 500 euro, studia. Giusto, non lo sapevo. I diritti vanno difesi soprattutto se difendono privilegi, questo vive su Marte, eccetera, eccetera. Andiamo con... Angelo che chiama da Caserta, buonasera Angelo. Buonasera. Eccolo qua. Sentite, io volevo dire due paroline quanto riguarda il signor Ferruccio, la ex consigliere comunale. Regionale dell'Emilia Romagna. Sì. Ma lui per pagare 75.000 euro di contributi in 5 anni, quanti soldi guadagnava? Lo stipendio di quanto era? Era bello capiente, no, se no certo. O gliel'ha messo di tasca sua i 75.000 euro? No. Primo. E secondo, ha detto un'altra baggianata, secondo me, Perché se ha detto che ha lavorato il prossimo anno, va in pensione, avrebbe stato tipo 40 rotti anni di contributi. Sì. E in tutti questi 40 anni ha versato solo 80.000 euro. Ma quando versava all'anno questo? Che contributi versava? Poco. Ma no, io poco, non sono in grado di fare conti così su due piani. Allora, glielo dico io. Nemmeno un artigiano. Una ditta individuale. Un artigiano? Sì. Un artigiano oggi paga quasi 4.000 euro di contributo all'anno. Per 40 anni sono 160.000 euro. Beh, ha ragione, sono 2.000 euro all'anno. Ha fatto un conto a spanne, 40 anni, 80.000 euro, sono 2.000 euro all'anno di contributi che sono in effetti pochi. Quindi Giovannelli ha fatto un esempio suo favore, si è fatto bella figura da solo. Io non ho avuto prontezza a controbattere, è vero Angelo, hai ragione, il suo calcolo non regge. E poi è vero che è vero che 1200 euro di vitalizio per 5 anni di lavoro in consiglio regionale sono comunque, io vorrei trovare un lavoro che lavori 5 anni e poi hai una pensione a vita di 1200 euro al mese. Non esiste. Angelo, grazie. Mario da Firenze, buonasera, vai. Sì, buonasera, senta, io sono un libero professionista, la pensione sì. Me la sono pagata personalmente come tutti quelle partite IVA e anche gli operai. Vorrei dire a quel signore che per quanto mi riguarda è un gran farabutto, lui, sindacalisti e tutti gli statalisti che di pensione non hanno pagato una lira. Ma adesso che c'entrano noi, i sindacalisti, Mario? Non... Gliela paghiamo perché sì. Sono della stessa razza, lei sa che c'è una legge che in un mese, con un mese di contributi hanno preso la pensione, addirittura. Una legge mi pare l'avesse fatta, ora mi sfugge il nome. Però voglio dire che con questa gente, primo di tutti, lo stipendio se lo stabiliscono da sé, non c'è comparazione con il mercato, non c'è la possibilità di avere un confronto, non c'è la possibilità di avere una concorrenza. Loro dicono che sono eletti, ma noi ne faremo volentieri a meno di questa gente. Io vorrei far passare questo messaggio, che questa gente non paga niente, ma ci rapina. Ha raffinato noi e raffina il futuro dei nostri figli. Mi dica, io sono una partita IVA sì. E ho pagato tutto perché le partite IVA. Che lavoro fa Mario? Che lavoro fa? Io sono un professionista, sono titolare di uno studio di ingegneria e sì. Architettura. Però attualmente hanno. Quanti anni ha lavorato prima di andare in pensione? Dunque, no, la nostra cassa pensioni privata prevede 35 anni di contribuzione prima di mandarci in pensione. Ma lei è già in pensione adesso? No, io attualmente sono in pensione, io ho pagato anche 20 milioni l'anno per prendere una pensione poco superiore a quella che ha detto questo signore, quindi io non so quanto ho pagato tantissimo. Però comunque 35 anni di contributi valgono la stessa, diciamo, rendono lo stesso assegno, la stessa vitalizia, la stessa pensione di 5 anni da consigliere regionale. È ovvio che c'è una stortura che adesso l'Emilia-Romagna ha sanato, perché la legge è stata approvata a maggio, è una buona legge, speriamo dal mio punto di vista che regga a questo ricorso. Poi naturalmente a settembre si parlerà anche della legge nazionale che si estende anche ai consiglieri regionali. Grazie Mario. Giovanni da Monza, buonasera, benvenuto, vai. Sì, buonasera, grazie dell'ospitalità, mi è riuscito a sentire ugualmente? Perfetto, forte e chiaro. Ottimo. Buonasera, io volevo ritornare sulla CEA e tutte le altre aziende che contribuiscono al problema che è sorto e che da più di una settimana se ne parla per Roma, per fare una puntualizzazione sì. Che nessun giornalista ha preso ancora forse in considerazione sufficientemente per guardarla più approfonditamente, e cioè in questi ultimi 10 anni, perché il problema, diciamo, limitiamolo agli ultimi 10 anni, queste aziende che controllano le acque, compresa la CEA, hanno fatto profitti o hanno fatto perdite? Ho la vaga impressione, da quello che è stato detto in questi giorni su vari emittenti, che abbiano fatto diversi profitti, ma che non siano stati, in misura normale aziendale, reinvestiti nelle aziende da loro governate. E siccome chi le governa queste aziende sono l'emanazione dei partiti, e siccome i partiti si appropriano della presidenza piuttosto che della posizione di amministratore delegato delle aziende pubbliche appena hanno il potere, o in comune o in provincia o in regione o nel sì. Governo, sono loro che dicono all'amministratore: guarda, il comune sta perdendo soldi, mi spiace, ma quest'anno li paghi i dividendi ai soci. E questo andazzo è colpa di tutti i partiti, compresa della Raggi, che non ne ha neanche lei menzionato, così come di chi ha governato in questi anni. Ora, se noi i partiti continuano a nominare gli amministratori delegati che fanno gli interessi del partito o della politica, ma non dell'azienda che sono a governare, noi non ne usciremo mai. Oggi saranno le acque, domani le telecomunicazioni, dopodomani... Non ne usciremo mai, ma quindi l'analisi è chiara, Giovanni. E la soluzione qual è? Privatizzare, come dice qualcuno. Per esempio c'è... C'è una... No, allora, no, beh, prima di andare da gestire correttamente la cosa pubblica, certo, sarebbe questo, l'uovo di Colombo. Allora, qualcuno di voi che fa di professione giornalista, vada negli ultimi 10 anni della CEA, guardi i bilanci di chiusura di ogni anno, verifichi quanto è stato fatto di fatturato, di profitti e di perdite, vada a dire che negli ultimi 10 anni 1.000 euro sono stati pagati al comune in forma di dividendi e 1 miliardo è stato pagato per migliorare la rete o per altre migliorie aziendali, non voglio specificare cosa. Va bene Giovanni, il tema dell'acqua è un tema complesso, necessita di grandi investimenti, però è vero quello che dici tu, che queste aziende sono state gestite spesso e volentieri male, molto male, non tutte male allo stesso modo, però il caso di Roma è sotto gli occhi di tutti, ma non solo. È un caso ciclico che si ripropone e quindi ritrovarsi adesso in questa emergenza, che è un'emergenza prevedibile, quasi ogni estate accade, è abbastanza scandaloso. Ma insomma, a Roma i problemi non mancano, l'ATAC, la CEA, non a caso Roma ha accumulato 13-14 miliardi di debito già commissariato e pagato di euro dallo Stato italiano. Antonio da Roma, buonasera. Buonasera, scusa, aspetta. Pronto, buonasera. Eccolo, vai. Allora, io volevo rispondere un momentino a quel signor Giovannelli là, sì, che paga 1.200 euro di pensione e di contributi. Incassa 1.200 euro di pensione e ne avrebbe incassati 1.250. Lui dice 1.000. La pensione che noi prendiamo oggi sono 1.029. Però io, malgrado la pensione 1.029... per i primi anni con lavorare. Cioè, tu prendi una pensione di 1.029 euro? Esatto. Che lavoro hai fatto? Se posso chiedere. Allora facevo il commesso viaggiatore. Poi dirigo adesso una piccola ditta di distribuzione, ok? Prendo 4.500 euro di stipendio lordo, ok? No, ma prendi la pensione o lo stipendio? Non ho capito. No, tutte e due prendo. Cioè, tu hai una pensione e stai ancora lavorando? Ho 74 anni. E lavoro ancora, dirigo questo magazzino. Sì. 4.500 euro lordo mi danno in busta paga, pago 2.000 euro ogni mese. Vabbè, stai pagando ancora tasse e contributi, sì. Esatto, lui dice che ne paga 1.200 e chissà quanto prende. Io ne pago quasi il doppio di lui e... Allora, questi politici, bisogna che la finiscono da piangere. O sbaglio? No, sbagli. Pronto? Per niente, non sbagli per niente, Antonio. Grazie anche per il tuo intervento. Giovanni da Cuneo, poi andiamo sul traffico tra pochissimo. Vai, Giovanni. Allora, io sono rimasto un po' basito, come si dice, a sentire quella frase detta in un accento, penso, meridionale, in cui si diceva che praticamente ai politici bisogna riconoscere questi diritti perché poi no, così non si incoraggia a rubare, eccetera. Quello allora, era De Luca, quello era un audio del governatore della campagna Vincenzo De Luca, sì. E non lo sapevo io. Allora, voglio dire, con quello che hanno dimostrato in questi anni, una frase così è fuori luogo totalmente. Come fuori luogo è anche la rimostranza di questo ex consigliere. Cioè, ma cosa vieni a dire che tu hai pagato? Prima cosa, tu sei un costo per la tua regione, un costo per lo Stato. Sappiamo bene che l'INPS, da quando ha fatto l'accorpamento con l'INDAP, ente di previdenza per statali, eccetera, non l'hanno fatta passare sta notizia, ma comunque ha avuto un crollo totale perché c'è un buco spaventoso. Lo Stato scrive, ma non versa. Per cui quello che i dipendenti, chiamiamoli dipendenti perché i politici sono di fatto dei dipendenti degli italiani, prendono e basta, non versano un accidenti come non lo fanno senza colpa tutti gli statali. Ma non è questo, io non sto dando colpe, sto dicendo lo Stato segna ma non versa, tanto poi a lungo tempo ripiana i debiti facendo cosa fare? Aumentando le tasse agli italiani, questa è la realtà. Allora, questi signori la devono smettere, tant'è vero che è uscito fuori con una frase del tipo vabbè, se dobbiamo adeguare la pensione a tutti, cosa facciamo? 2.000, 3.000 euro? Ma la gente normale vive con 500 euro, non con 3.000 euro, questo è fuori dal mondo. Assolutamente, questo è fuori dal mondo questo personaggio. Cioè loro vivono talmente bene sulla spalla degli italiani che non si rendono più conto di essere un peso alla nazione. E poi smettiamo di parlare della Raggi, tanto forse intanto, che... intanto Giovanni, grazie, intanto c'è chi comincia a fare conti: se versando oggi 85.000 euro potessi avere 1.200 euro mensili di vitalizio, ovviamente a vita, lo farei subito, scrive un ascoltatore che evidentemente ha fatto i conti, è stato più svelto di noi. Traffico. La decisione che hanno preso non è che cancella, non si chiama vitalizio, questa pensione integrativa che scatta a 65 anni. No, rimane. Per qualcuno viene ridotta, per qualcun altro viene addirittura aumentata. Ma si può vivere in un paese nel quale queste buffonate continuano a non scandalizzare l'Italia? Tutto per far finta di essere moralmente superiori. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, un'estate a secco questa qua, c'è il Po quasi in secca, basta passarci vicino e ci se ne rende conto. Il lago di Bracciano, l'abbiamo appena detto, è agli sgoccioli, addirittura sul Monte Bianco, abbiamo letto oggi sul giornale, non ricordo più quale storico rifugio, ha chiuso prima del tempo rispetto alla stagione, perché non c'è più neve, non ci sono più ghiacciai, è tutto sciolto, già tutto finito, e quindi è un'estate particolarmente di siccità questa qua. Allora però noi vogliamo fare punto con Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Buonasera. Ciao, buonasera. Eccolo qua, perché insomma risparmiare l'acqua si può, insomma si deve soprattutto, anche se mi viene il sospetto che i consigli che voi ogni anno cercate di dare, i suggerimenti, le indicazioni, dovrebbero quasi essere degli obblighi. Per esempio io leggo che dal vostro vademecum il mondo è fatto di gocce, che mettendo solo il frangigoccia, come si chiama, il frangiflutti al rubinetto, si potrebbe risparmiare il 50% di acqua. Sì, 50% del flusso, ma ci sono delle tecnologie molto proprio semplicissime, molto economiche. Questa però è economicissima, basterebbe renderlo obbligatorio, non dico che risolveremmo il problema della siccità, però il 50% è tantino. Abbatteremmo pesantemente alcuni degli sprechi dell'acqua, sicuramente, quello del rubinetto aperto, quello delle docce aperte, per cui queste sono cose che sì, suggerimenti, ma ci aspettiamo che in un momento del genere di altissima siccità, ecco, da suggerimenti diventino veramente indicazioni e quasi obblighi da parte delle amministrazioni, che invece di dire ecco risolveremo, faremo, investiremo, cominciamo a ecco dare il buon esempio. Per esempio, tutte le amministrazioni che sono colpite da queste enormi siccità possono rendere queste piccole tecnologie utili nei propri uffici, nelle proprie strutturazioni. Ecco, ma c'è qualche amministrazione, comune, regione, qualcuno che ha imbroccato la strada giusta e che sta facendo qualcosa? Perché insomma, questa è un'emergenza prevedibile, no? Ogni anno si arriva con l'estate, questa è un'estate particolarmente di siccità, però ci sono state anche altre, e poi si grida l'emergenza, acqua, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che sta facendo le cose giuste da poter indicare? Devo dire molto pochi, noi ne contiamo veramente pochissimi. Il problema è veramente che ci siamo fatti trovare impreparati all'anno della siccità, che sapevamo che sarebbe prima o poi arrivata così violenta anche in qualche modo, e che sappiamo arriverà sempre con maggior violenza negli anni futuri, purtroppo, per i mutamenti climatici e quant'altro. Questo è il tema vero, che forse le amministrazioni stessero mettendo in campo azioni concrete di risparmio idrico, sarebbero tutti molto in ritardo, perché noi di queste azioni insomma ne avevamo bisogno un po' di anni fa. Gli obblighi a mettere i doppi flussi agli scarichi dei bagni nelle case dei cittadini italiani dovrebbe essere una consuetudine, a partire dagli istituti scolastici. Noi abbiamo contato per esempio a Roma che il risparmio idrico potrebbe portare addirittura a 10 milioni sono, di litri d'acqua. In alcuni casi, esatto, sono piccoli investimenti, no? Non c'è un obbligo di questo genere, no, non esiste da nessuna parte. Non ci sono obblighi, abbiamo letto qualche premialità in qualche normativa di legge, per esempio la legge regionale del Lazio sulla rigenerazione urbana, che tra le premialità per ampliamenti e quant'altro implica, mette dentro anche il recupero delle acque piovane, il riutilizzo delle acque grigie dei rubinetti, insomma cose abbastanza anche vecchie, che però sono molto attuali in questo senso. Mi sono fatto questa idea che se non ci sarà da qualche parte un obbligo, un razionamento preventivo dell'acqua, speriamo di no, debbano aumentare le tariffe, non cambierà molto la solfa, perché è difficile risparmiare l'acqua facendosi la barba, chiudendo il rubinetto, ricordandosi di farlo, oppure fare la doccia anziché il bagno. Questo magari d'estate accade più spesso. Se il cittadino non ha, come dire, consapevolezza del risparmio che sta effettuando, perché insomma il rubinetto fino a prova contraria è sempre disponibile e uno non si accorge, no? Quindi senza obbligo, io per esempio le faccio quest'estate, mi è capitato, ero in una casa in affitto e il proprietario di casa mi ha detto: dai pure l'acqua al giardino. Io ho dato l'acqua al giardino la sera perché avevano appena messo il prato e la mattina dopo mi sono svegliato e non c'era più acqua in casa. Mi è venuto il panico, ho detto forse ho finito l'acqua che c'era a disposizione, invece poi c'era semplicemente un guasto nell'acquedotto nella zona di Grosseto e siamo rimasti tutti senza acqua. Però è facile sprecare l'acqua senza rendersene conto se non ci sono delle costrizioni, degli obblighi. No, assolutamente sì, è troppo facile, e anche lo spreco dell'acqua è una di quelle consuetudini che abbiamo acquisito negli ultimi decenni, come quello per esempio della produzione di rifiuti esasperata, che non avevamo prima. L'acqua di cottura della pasta veniva riutilizzata, lo sappiamo, la conosciamo la storia, 20 o 30 anni fa insomma c'erano ancora i ricordi di quell'utilizzo razionale dell'acqua, anche metterla nei cassoni per poterla utilizzare in maniera razionata, perché anche la storia della sparizione dei cassoni dai condomini è abbastanza interessante, nel senso che noi avevamo dentro le abitazioni. Certo, acqua è una corrente, follia questa qua, esatto, che si depositava, follia, che rimaneva a disposizione chissà per quanto tempo, e invece poi quelli avrebbero aiutato per esempio nella raccolta di acque piovane, cosa che a un certo punto si è tutti immaginato di avere acqua corrente a disposizione 24 ore su 24, sono spariti i cassoni, invece quel rubinettino dell'acqua diretta, che era anche quella potabile, sarebbe molto utile in questo contesto, in questo ambito. Purtroppo siamo andati un po' oltre, ma dobbiamo assolutamente fermarci e tornare indietro, tenendo presente pure che l'altra metà del cielo è lo spreco d'acqua, perché il 44% dello spreco della dispersione nelle tubature di Roma e provincia, a fronte delle captazioni di Bracciano e dei possibili razionamenti, veramente grida vendetta. Ecco, ma su Roma, no? Dal vostro punto di vista, di chi sono le responsabilità in questo momento? Il comune, Acea, la regione, chi è che sta sbagliando nella gestione dell'acqua? Beh, c'è un numero incontrovertibile, quello della dispersione idrica, 44%, ma soprattutto c'è il e questo numero, da chi dipende? Chi è che dovrebbe fare questo? Il gestore del servizio idrico si è dimenticato di fare manutenzione, questo è ovvio, perché nel 2011 la dispersione era intorno al 26%, oggi è quasi raddoppiata, vuol dire che i dividendi sono stati staccati e insomma... donati, diciamo così, alle parti in causa, ma non è stata fatta la manutenzione degli acquedotti. Questo è ovvio e sicuro. Se posso aggiungere una cosa, c'è sicuramente il Comune di Roma che non ha mai indicato nella sua storia ad Acea qual era la direzione da prendere per quanto riguarda il risparmio idrico. Il Comune di Roma, che è proprietario di Acea, ha avuto sempre una voce molto debole nei confronti dell'azienda municipalizzata, attendendone solo appunto a fine anno i dividendi. Anche in questo caso l'attuale amministrazione romana assolutamente non ha fatto niente, ma non è che non ha fatto niente oggi che non piove e fa molto caldo. Purtroppo questa situazione viene evidentemente dall'inverno scorso, quando nelle montagne all'interno dell'Appennino non ha né piovuto né nevicato sul fronte tirrenico, a fronte invece delle grandi nevi che sono cadute sul lato adriatico. Ecco, le sorgenti che portano acqua a Roma, che si chiamano da una parte acqua marcia che viene dai Monti Simbruin, dall'altra acquedotto del Peschiera che viene dal Reatino, sono in crisi dallo scorso dicembre, e già nello scorso dicembre, cosa che certifica evidentemente questa crisi, Acea ha iniziato a captare di 2.500 litri al secondo l'acqua del lago di Bracciano. Era lì che il Comune di Roma avrebbe dovuto dire qualche cosa in più ad Acea nella riparazione di acquedotti, che evidentemente il gestore sa perfettamente dove sono rotti, dove perdono, quali sono le dinamiche che portano a questa enorme dispersione, anche perché se di dispersione alta si parla in provincia di Roma, è enorme, a Frosinone, provincia, cioè in un altro territorio che fornisce anche un po' di acqua alla capitale, dove si perde qualcosa come il 75-6% dell'acqua immessa in rete. Vuol dire che noi stiamo abbassando sotto il livello minimo vitale i fiumi, e questo è ovvio, svuotando i laghi, abbassando quindi le risorse, disperdendo 3 litri su 4 di quelli che in realtà captiamo. E in un momento di crisi idrica come questa, andare poi a toccare le risorse idriche basilari, come per esempio appunto il lago di Bracciano, è assurdo, se a questo non si accompagna una sana e robusta lavorio sulla rete colabrodo. Ecco, per esempio, anche lavare l'automobile con il secchio anziché con il tubo fa risparmiare 100 litri d'acqua. Fate come me che non la lavo e fate prima, tanto prima o poi piove e la macchina si lava da sé, no? Assolutamente sì, ci sono tante cose che chi si se ne frega fare della macchina pure. Perché la macchina deve essere splendente? Chi l'ha detto? Cioè, dove ci deve andare uno con questa macchina tutta pulita, linda, che uno 100 litri d'acqua per lavare una macchina? Ma chi se ne frega, no? Beh sì, ci sono evidentemente degli atteggiamenti che prima non esistevano. La macchina è uno spreco assoluto. Ai matrimoni, la macchina, voglio dire. La macchina si puliva quando c'era. Bravo, per andare al matrimonio. Lava la macchina la moglie che diceva perché dobbiamo andare al matrimonio. Adesso non dobbiamo neanche andare al matrimonio, quindi la macchina non laviamola. Grazie, Scacchi, buona serata. Altrettanto. GR, ci sentiamo dopo. Ma cos'è quest'estate? Semplice, l'appuntamento estivo con l'attualità di Radio 24. Le storie di cronaca più importanti, i numeri di un'Italia in continuo cambiamento e un po' di leggerezza sotto l'ombrellone. Ma cos'è quest'estate? Con Elisabetta Fiorito, Roberta Giordano e Deborah Roscian. Dal lunedì al venerdì alle 8 su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Eccoci qua, buonasera da Alessio Maurizi, in onda dalle 18 alle 20 queste sere fino al 5 agosto, poi di nuovo dopo il 21, dopo una pausa estiva per tutti. 800 24 00 24 e buonasera anche a Fabio Ragni, candidato alla segreteria del PD per la provincia di Ancona, buonasera. Buonasera Alessio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Nonché autore di un video definito omofobo e che tu invece hai definito una goliardata. Un video di 4 anni fa che adesso... tu sei omofobo intanto? Ti definisci? Ah, ce l'hai con gli omosessuali? Proprio no. Però questo video, descrivo io velocemente, non possiamo farvelo sentire perché in realtà non c'è un audio vero, ma ci sono delle scritte che appaiono in sovraimpressione. È la storia di un ragazzo che non si piace tanto, si guarda allo specchio, non riesce a conquistare i maschi, perché lui è gay evidentemente. A un certo punto trova il rimedio, un profumo che si chiama acqua di frogio. E d'improvviso tutto cambia, diventa bello, seducente, fa tutte le conquiste che deve fare, poi il video finisce così, diciamo, tra scherzi e qualche risata, realizzato da te e da alcuni amici 4 anni fa in una pausa durante gli studi? Esatto. Ecco, però questa parola, frogio, evidentemente, ha toccato qualche sensibilità. Qualcuno lo ha definito un video denigratorio. Tu sei candidato alla segreteria del PD per Ancona, quindi hai anche un ruolo pubblico. E, descrivicelo tu questo video, se non è omofobo, come è nato? Se non era per prendere in giro, come è nato? Perché è nato? Assolutamente. Il video in questione è un video in questione, come ben detto, di 4 anni fa. Primi anni di università, secondo se non sbaglio. È un video che è stato realizzato unicamente. Nel frattempo ti sei laureato? Ma mancano 5 esami, speriamo bene. Non... Beh, se continui a far video, forse meglio, meglio abbandonarla video... quella carriera. Non lo so. Magari invece che la carriera giusta potrebbe essere quella di YouTuber. Vai, continua, racconta. È un video che aveva solamente scopo ironico, di certo non voleva offendere nessuno. Io mi sono scusato se qualcuno si è offeso per quel video. Capisco naturalmente le sensibilità portate. C'è da dire che naturalmente non era quello l'intento. L'intento era quello che il video rimanesse privato. Vabbè, era questo stato... sempre tutti i video, però poi si sa che possono essere anche pubblicati. Beh, ormai è tutto pubblico, non è che... ci siano molto questi confini. Però è nato per ridere, vero. Però io, per esempio, guardando il video ho sorriso un po', devo dire, anch'io. Non l'ho trovato omofobo, devo dire la verità. Non mi sembra, ci sono degli ammiccamenti un po' alla Lino Banfi, vecchia maniera, no? Quelle cose un po' frocio, mi ha ricordato un po' quella cosa lì. Però neanche c'era molto il tempo comico, cioè non si capiva dove stava la battuta. Una cavolata fatta da... Non ha fatto ridere neanche a me a febbraio, quando poi l'ho rimosso. Il video era su YouTube, aveva fatto sì e no 50-60 visualizzazioni, non era di certo lì per quello, era lì per renderlo fruibile alle persone amiche che l'avevano voluto vedere, e finiva lì. Chi mi conosce sa che non sono una persona omofoba, e neanche gli altri ragazzi che partecipano nel video, però, e poi è stato tirato fuori il giorno dopo, il giorno dopo dell'annuncio del progetto per la segreteria provinciale di Ancona. Tra l'altro, questo è stato detto dagli stessi che hanno fatto uscire la notizia. Gaypost.it ha detto che l'articolo, il video gli è arrivato esattamente il pomeriggio dopo l'annuncio. Vabbè, ma quando uno si candida, poi si sa, entri, come si dice, nella cosa pubblica, ci provi almeno, e quindi poi ci può sempre essere qualcuno che cerca di danneggiarti l'immagine. Però perché io cerco di capire perché ora. Ripeto, non è un video omofobo, è un video così, diciamo, ti fa fare 2 risatine a denti stretti, però si sa lo sberleffo, la presa in giro, denigrare il gay, offendere l'omosessuale, è sempre dietro l'angolo, è sempre possibile, lo sappiamo, perché non dobbiamo pensare ai gay arrivati, quelli che vediamo magari di successo, che stanno nelle trasmissioni televisive o fanno la moda, eccetera, eccetera. Ci sono, pensiamo alla piccola famiglia media, della provincia media, della città media, dove essere gay per un ragazzo è sempre difficile. Tu vieni da Ancona, non sei a Milano, perché ti è venuto in mente di prendere in giro i gay? No, non era un video per prendere in giro i gay. L'ironia per me si fa su tutto. Il black humor è una cosa sacrosanta di questo paese, soprattutto di un paese libero. Giusto. Fino a che una cosa la si fa e conoscono come la pensi, nessuno si offende, perché sanno che lo scopo è unicamente ironico. L'eccessiva deriva verso l'ideologia del politically correct ad ogni costo, rischia di trasformarsi in estremismo e intolleranza, cioè al pari di quella promossa da Salvini sul fronte opposto, ovviamente. Vabbè, te la sei cavata così, rovesciando, posso dirlo, un po' la frittata, perché non hai spiegato perché vi è venuto in mente di fare un video con acqua di frogio. Poi anche dire semplicemente anche, do la risposta, perché scusa, forse ho perso il filo. La motivazione del video è molto semplice, tant'è che è stata scritta anche su Affari Italiani, dove ho rilasciato un'altra intervista, e la motivazione è che noi avevamo un amico omosessuale, che fra l'altro nel periodo non riusciva a trovare neanche un compagno. Ah, beh, allora, noi era una satira anche rivolta nei suoi confronti, ma lui lo sa? Sì. Lui lo sa? Ovviamente lo sa, e mi ha chiesto tra l'altro anche di rimanere anonimo, come è giusto in questa occasione. Però esiste, non è che ci stai inventando una... ci stai mettendo una toppa. Nessuna toppa, ma anche se l'avessi fatto unicamente per scopo ironico non ci trovo nulla di male da questo punto di vista, se non il fatto che il video non doveva essere divulgato. Chi mi conosce non si è di certo offeso e mi ha anzi mandato la propria solidarietà. Mm. Oltre a essere bravo a rovesciare le frittate, non sto scherzando, a parlare probabilmente, se no ti candideresti a fare il segretario di un partito. Qual è il tuo background politico? Perché fare video divertenti così va bene se vuoi farlo youtuber, ma non se forse se vuoi fare il candidato, oddio, con Renzi segretario forse vale tutto. A quale figura politica ti ispiri, per esempio, tu? No, non ci sono figure politiche a cui ispirarsi. Ispirandosi a figure politiche del passato si rischia solamente di rimanere bloccati nei nostalgismi che sono proprio la distruzione della politica. Però cosa vuoi? Vuoi innovare, essere un innovatore? No. Lo so, Renzi è un... ti ispira Renzi? Dobbiamo tutti essere innovatori. Renzi, secondo me, nel panorama politico attuale, sicuramente... è la persona più adatta ad incarnare questo spirito. Mm. E altri leader politici, non so, del passato, Prodi, Beltroni, D'Alema. D'Alema proprio no, direi. D'Alema no. Perché D'Alema no? Penso che non ci sia neanche bisogno di dirlo. No, come? Non è mica un appestato D'Alema, poveraccio. No, semplicemente è credo uscito che... dal PD, va bene, insomma, però... Ma non va benissimo, forse sarebbe dovuto uscire anche prima, per i miei gusti. Ah, e Prodi? Non so. Prodi è stato l'unica persona in grado di battere veramente Silvio Berlusconi. Penso che bisogna avere rispetto come insegnante, come uomo politico e uomo delle istituzioni, sicuramente. E ancora più guardando al passato, per esempio Berlinguer. Che ne Berlinguer, pensi di Berlinguer? Berlinguer è vissuto in un'epoca completamente diversa da questa. Noi all'epoca non esisteva internet, che ha tirato fuori questo polverone, ad esempio. Non esistevano i telefoni cellulari. Pensare di dover continuare a rivolgersi a questi dogmi e totem del passato mi sembra quantomeno ridicolo. Riconosco naturalmente l'importanza... No, non è ridicolo, perché se ti candidi a fare il segretario del PD, sapere qual è la storia del tuo partito non è ridicolo. La storia del mio partito la conosco, estremamente rispetto per tutte quelle persone che ne hanno fatto la storia, ma guardare unicamente al passato non serve a nulla. Sì. I nostri esponenti di partito dovrebbero rendersi conto che abbiamo le sedi di partito vuote. E quando sono riempite da qualcuno sono persone con oltre 60 anni, dovrebbero farsi qualche domanda a riguardo. Mm. Ma com'è morto Berlinguer, te lo ricordi? Ictus a Padova. Bravo, sei preparato. Volevo capire se hai il background. Hai il background per fare forse il segretario del partito, nonostante questo inciampo, forse a questo punto non per fare lo youtuber, perché il video non è che sia venuto benissimo. Video di 4 anni fa, ma non aspiro neanche a fare lo youtuber, quindi non avrà un seguito. No, assolutamente. Quando fate le primarie, come fate lì ad Ancona? Guarda, io penso che il nostro progetto debba andare avanti. Penso che debbano essere gli iscritti a decidere se questo gruppo merita di guidare la segreteria del partito o meno. Come non è un bel momento ad Ancona per il PD, perché c'è stato un altro esponente che Diego Urbisaglia, sì, che è stato cacciato dal partito, sì, lo so. Io penso che questa storia non sia un bel momento per il partito per un altro motivo. La motivazione è molto semplice. Questo attacco rivolto nei miei confronti è venuto dall'interno dello stesso Partito Democratico, probabilmente. E quindi è ancora più grave pensare che il partito si faccia autolesionismo solamente per bruciare un progetto. Anziché screditarmi per farmi fuori in modo scorretto, chi non crede in questo progetto potrebbe presentare un altro candidato e battermi sulle idee. Ma non con queste dietrologie subdole. Va bene, grazie. Un saluto a te e all'amico gay sotterraneamente citato nel video, ma che non era espressamente a lui dedicato. Va bene, grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata. Allora. Ricapitolando, abbiamo un po' di ascoltatori in linea, cominciamo a sentire qualcuno, poi ci sarà la borsa. Franco da Taranto, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a lei. Sto intervenendo per quella questione che riguarda il consigliere dell'Emilia Romagna. Sì. In realtà lui ha perfettamente ragione quando dice che la sua pensione debba essere calcolata sui contributi versati. È stato santissimo questa sua affermazione. Il problema è un altro, secondo me, è che è il modo in cui viene il periodo in cui viene definita questa pensione. Cioè, non si può pensare che un lavoratore dipendente che ha 5 anni di anzianità contributiva debba aspettare 67 anni per poter prendere la pensione, mentre loro la prendono, perché mi sembra di capire che lui ha già 67 anni. È qui il privilegio che hanno. Allora io sono d'accordo, prendessero la pensione in base ai contributi versati, è giusto, chi ha preso uno stipendio altissimo, buon per sì, lui. Beh, però se seguendo il ragionamento di Giovannelli, con quei contributi ci sono pensioni ben più misere della sua, e soprattutto lui ha potuto versare quei contributi perché aveva uno stipendio del consigliere regionale alto, molto alto, e quindi in soli 5 anni ha potuto totalizzare quel montante di contributi. Grazie Franco, buona serata. Andiamo con Andrea da Vicenza. Buonasera. Buonasera. Allora, io chiamavo riguardo il risparmio idrico. Sì. Allora, lì è semplice, non serve fare tante leggi, tante cose, basta aumentare il costo dell'acqua. E ovviamente chi vuole risparmiare è l'unico modo per ottenere qualcosa in Italia, almeno, no? Si aumenta il prezzo e chi vuole risparmiare deve adeguarsi. Però scusa, è possibile che si debba arrivare a questa estrema ratio, cioè aumentare la tariffa dell'acqua, perché magari alcune aziende, come è stato detto, l'ACEA non ha fatto gli investimenti dovuti, si rischia che i romani pagano ancora di più l'acqua perché aumenta la tariffa. Però ACEA, che non è obbligata in qualche modo a fare questi investimenti, si mette in tasca i soldi, continua a pagare, che ne so, super stipendi, bonus, prebende, tutto quello che purtroppo sappiamo è successo in passato, e quindi alzare la tariffa di per sé non è una garanzia. Sicuramente, difatti era un po' anche una provocazione, no? Nel senso che, guarda, io mi occupo di acqua, di trattamento acqua, depurazione, sì, tutto quanto. Tenga presente che il risparmio dei 100 litri per non lavare l'auto è una goccia, ma veramente una goccia infinitesima. Io mi occupo di sistemi di irrigazione, di depurazione, recupero acqua, e guardi, il consumo dell'acqua per uso civile è veramente la minima cosa. Il problema è l'ottimizzazione dei consumi a livello industriale, a livello di depurazione, a livello di agricoltura, a livello di dispersione degli acquedotti. Sicuramente io lavoro molto in Sicilia, sì, dove chiaramente, vista la scarsità, diciamo, cronica dell'acqua, è molto più all'avanguardia di regioni del nord che chiaramente non badano a spese, come dire, no? Tenga presente, per esempio, che in India lo scarico in depurazione ha dei limiti restrittivi molto più alti dell'Italia, e si parla infatti di scarico zero. Tenga presente che le aziende italiane del settore, sì, se non avessero ti stiamo perdendo, Andrea, grazie. Io però resto convinto che nel periodo estivo, pre-estivo, per evitare il momento di massima allerta, di massima siccità, una forma di pre-razionamento non sia da non prendere in considerazione, perché soltanto se sai che la tua acqua di casa tua è limitata, allora diventi più responsabile nel consumo, perché se non sai questo, continui a fregartene e a consumare. 800 24 00 24, borsa, torniamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Venezuela spaccato dopo il voto per l'Assemblea Costituente. Maduro proclama la vittoria e minaccia il pugno duro. Le opposizioni: non cederemo. Sale la preoccupazione internazionale. Trattativa al Viminale sul codice di condotta per le ONG impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo. Medici Senza Frontiere non firma, lo fa invece Save the Children. Vertice tra Gentiloni, Padoan e Calenda su Fincantieri. Domani l'atteso incontro con il ministro francese Le Maire dopo lo stop di Parigi alla cessione dei cantieri Saint-Nazaire. scatta oggi il fermo pesca con il blocco delle flotte per favorire il ripopolamento. Si comincia dall'Adriatico, il TG3 tra i pescatori delle Marche per raccontare le difficoltà del settore. Ancora intimidazioni contro il presidente del Parco dei Nebro di Giuseppe Antoci, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia. Le minacce, assicura, non mi fermeranno. È morta Jeanne Moreau, volto della Nouvelle Vague del cinema francese. Inquieta e anticonformista, fu simbolo di un'epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Cares what they know. Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. C'è un ascoltatore al 349-238-6666 preoccupato perché ho detto che non bisogna lavare la macchina, è preoccupato perché così facciamo chiudere anche gli autolavaggi e mettiamo a casa anche quella gente lì che ci lavora. No, ma figuriamoci, non credo che chiuderebbero gli autolavaggi, dico solo che lavare la macchina è uno spreco, insomma, se uno lo fa una volta all'anno, due volte all'anno va bene, ma lavare la macchina tutte le settimane, che poi piove, comunque la polvere c'è lo stesso, a cosa serve? Soprattutto in un momento del genere nel quale l'acqua scarseggia, l'acqua dovrebbe servire a delle cose più importanti, più prioritarie, io la penso così. Fabrizio da Genova, buonasera, benvenuto. Buonasera, dunque io sono abito a Genova, però sono marchigiano di origine. Sì. Sono rimasto allibito dalle parole di questa persona. Quale, per chi? Chi? Ah sì, il candidato alla segreteria provinciale. Di Ancona, sì, del PD. Insomma, io lo trovo veramente squallido, veramente squallido. Mi stupisce che qualcuno lo voglia candidare e mi stupisce che lui non si renda conto che quando una persona vuole candidarsi, io spero che sia ancora l'ascolto. Ma perché lo trovi squallido? Perché? Ma lo trovo squallido perché per una serie di motivi. Il principale è che quando una persona si candida deve stare attento a quel che dice sempre, giustamente. Lui però questo video lo ha fatto 4 anni fa quando non era assolutamente un candidato, quindi questo va detto. Ho capito, ma poi parla male di... cioè di Berlinguer, sapeva che era morto a Padova nell'84, va bene, parla di Totem, parla di, cioè sì, è un po' pieno della retorica renziana sulla rottamazione che è andata a sbattere, esatto, anche lei lo sappiamo benissimo, però questo, quindi già questo ma poi la retorica renziana uno può anche averla dentro, ma non si può permettere di andare in giro dicendo che D'Alema era da mo' che doveva andarsene, e soprattutto non può dire che Berlinguer è una sorta di mummia. Questo altrimenti però penso non sì. Si deve candidare uno così. Fabrizio, io penso però che dentro il PD ce ne siano tanti che pensino quello che ha detto il candidato Fabio Ragni, il candidato di Ancona, perché gli animi si sono esacerbati talmente tanto tra la componente di sinistra che poi è uscita e l'ala renziana, che questo livore c'è, secondo me, nel PD. Non lo dice solo questo ragazzino qua, ma lo pensano, credo, in tanti. La questione si pone anche a Genova, però sono molti anni, ancora prima che nascesse il problema di Renzi, che molti giovani di quella specie lì sì. Sono arrivati alla ribalta facendosi gli affaracci loro, e adesso il PD, cioè pardon, Genova è passata alla destra perché questa gente è riuscita a farsi largo, erano dei trentenni, oggi sono dei cinquantenni che hanno consegnato la città alla destra. Che sia un bene, che sia un male, io non lo sto giudicando, sto dicendo che dopo molti anni di governo delle sinistre, chiamiamole così tra virgolette, del centro-sinistra, chiamiamolo come vogliamo, si è persa la partita, perché comunque questa gente, quella gente, quella che appunto è rappresentata dal video di Ancona, dico dal video di Ancona, adesso è al potere e continua a volerci rimanere, quindi continua a devastare un lavoro che ha iniziato a suo tempo. Ho capito, Fabrizio, è difficile attribuire le cause per una sconfitta elettorale come quella di Genova, credo, però naturalmente adesso la maggioranza nel PD ce l'ha Renzi, ci stanno i renziani che sono al governo e quindi è giusto che gli si attribuisca quella responsabilità. Grazie, Lucia da Roma, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo dire il mio metodo per risparmiare l'acqua. Lei ha ragione, sì. Tanti piccoli niente ammazzano un asino, diceva mia nonna. Io faccio così, mi lavo, recupero l'acqua e la uso per il water, per altre cose. Ma come fa però Lucia a recuperare l'acqua che ha usato per lavarsi? Mette il tappo nella vasca? No, metto una bacinella nel lavabo oppure una grossa non la lascia scorrere, non la lascia scorrere via. Si lava, no, fa tutto quello che deve fare, mette la bacinella e poi recupero. La bacinella la usa per innaffiare le piante. Cosa ci fa? Pulisco il water, che tra l'altro è pieno di detersivo, sapone, eccetera, e risparmio i detersivi. Rispetto all'ambiente e risparmio l'acqua, perché è una cosa vergognosa. Qui tutti quelli che lavano le macchine, una quantità enorme di acqua vedo scorrere perché ne ho uno di fronte. Io la prima cosa che farei, se fossi sindaco, chiuderei tutti i lavaggi delle auto. E poi ci vuole un'educazione per tutte queste cose. Io sono stata in posti dove l'acqua era veramente preziosa, per cui da quel momento in poi ho sempre fatto così. Ad esempio, sono sola, mi lavo le mie lenzuola a mano e faccio solo l'ultimo risciacquo in lavatrice. Conosco alcune mie amiche, per quanto glielo dica, non serve a niente. E dopo la lavatrice fanno altri risciacqui, altri passo risciacqui, perché sì. Hanno la mania di... non sono a volte contenti. Si lava della roba che è già pulita. Già poi, pulita, così si fa anche un po' di muscoli, Lucia? Cioè si tiene anche un pochino in allenamento. Sì, mi tengo in allenamento io, senz'altro. Sembra una barzelletta, ma è così. Però è vero che è un po' macchinoso. Cioè, quello che fa lei, Lucia, di mettere la bacinella sotto... Non è che macchinoso, perché farlo, quando viene però... mio figlio lo fa, sì. Tranquillamente. Però non io è macchinoso. Io mi lavo le mani, prendo e butto nel water, capito? Però io dico, e la ringrazio Lucia, se è vero quello che dice Legambiente, che solo con il, come si chiama, il frangiflutti, credo che si chiami, quello che si mette nell'uscita del rubinetto, solo con quello si può risparmiare il 50% di acqua che esce dai rubinetti, quello andrebbe reso obbligatorio domani, subito. E io adesso, visto che siamo in emergenza d'acqua, chiuderei tutti i lavaggi delle macchine. Ma dobbiamo arrivare a morire di sete contemplando le macchine lucide? Mi sembra assurdo. Brava Lucia, grazie. No, chiuderli no, però limitare in certe stagioni certi consumi di acqua e certi sprechi, come può essere anche lavare la macchina, in effetti. Sì, questo credo anch'io di sì. Rita D'Ascoli, Piceno, buonasera. Sì, buonasera, grazie per darmi questa opportunità. Mi riallaccio al discorso del signor Giovannelli sulle pensioni vitalizie, perché mio marito ha una situazione veramente drammatica. Cioè, dopo 44 anni di versamenti contributivi, sta ancora continuando a versare. Fra poco inizierà il 45° anno, non gli danno la pensione. È incappato nelle ricongiunzioni. È un esodato? Un esodato, no. No, lui è un geometra. No, esodato, ho capito, è però categoria, è libero, sì. Professionista adesso. Sì. Cioè, siccome all'inizio ha lavorato sempre a 65 anni, ha fatto il militare e poi subito ha lavorato. Cioè, ha iniziato a 19 anni? Ha iniziato come dipendente, sì. E quindi ha versato all'INPS con cifre alte all'epoca, a un montante contributivo di circa 130.000 euro, se non erro, all'INPS. Poi ha iniziato a fare il libero professionista, 34 anni da libero professionista. Vabbè, adesso non ci faccia tutta l'elenco, Rita, perché comunque, diventa... Ognuno ha il suo. Quanti anni ha suo marito? 60? 65, 44 anni di versamenti. E quanto gli manca per andare in pensione? Guardi, non lo sa neanche lui. No, la legge dice 20 anni all'INPS per prendere la pensione, minimo 20 anni di versamenti, e 40 alla cassa geometri. Quindi lui è assurdo, questa legge sembrava che volessero cambiarla. Non si sa ancora cambiarla. Quanto gli manca, però ancora gli manca. E lei, giustamente, dopo aver sentito Giovannelli, che per 5 anni di consigliatura regionale arrivato a 65 anni in cassa il suo bel vitalizio, la signora ovviamente si infuria e ha ragione, e ha ragione. E dove andiamo? Con Paolo da Potenza. Sì, Paolo? No, è più che altro Paolo da Prato. E allora c'è, se abbiamo Paolo da Prato, prendiamo Paolo da Prato. Benissimo. Io mi ricollego sempre anch'io al caro Giovannelli. Sì. Lui disse, lui ha versato, calmi, ha versato soldi nostri. Certo, sì. Non erano soldi suoi. Lui come dipendente statale ha versato soldi nostri, non ha versato soldi suoi. No, questo però lo sappiamo, Paolo, questo è a monte di tutta la faccenda, no? Ogni dipendente pubblico viene pagato con soldi nostri. Lo so, ma io sono un libero professionista, sì. Io gli incasso e poi gli verso il 31 ore, il 21 ora, cioè la rata trimestrale dell'INPS, e sono ammorto. Quelli sono soldi miei che ho guadagnato io. Lui c'ha i contributi dello Stato, è diverso. Va bene, un Paolo. Stipendio pulito, sì. Più i contributi che gli versa lo Stato, che sono soldi nostri. Va bene, Paolo, grazie, buona serata. Allora, intanto Alberto mi dice, mi corregge, non è frangiflutti, ma è rompigetto, quello che si mette nell'uscita del rubinetto, che consente di appunto rompere il getto dell'acqua e aumentare la portata, cioè diminuire la portata aumentando l'effetto dell'acqua che esce, perché in mezzo c'è l'aria. Solo quello può far risparmiare il 50% di acqua che esce dai rubinetti. Rendiamolo obbligatorio domani. Poi un altro ascoltatore, Glenn da Rimini, invece sempre al 349-238-6666, mi dice che l'autolavaggio è a circuito chiuso. Ma cosa state dicendo? Cioè l'acqua si recupera e si riutilizza sempre la stessa. Glenn, sei sicuro di questo? Tutti gli autolavaggi? Può darsi che sia così, benissimo, in questo caso sarebbe un giusto risparmio di acqua altrimenti sprecata inutilmente nel lavaggio dell'auto. Maurizio da Modena, buonasera. Grazie, buonasera a lei. Eccolo, vai. Io, guardi, desideravo rapidamente intervenire semplicemente in merito all'intervento del ragazzo candidato alla segreteria del PD e sì. All'intervento successivo dell'ascoltatore. Non butterei la croce addosso a questo ragazzo, anche perché un errore a 20 anni si può fare. Concordo però con lui, indipendentemente dall'errore che ha fatto, sul discorso ideologico, nel senso che uno può pensare che Berlinguer sia un totem che ormai penso il PD dovrebbe superare, che D'Alema era magari ora che uscisse prima dal partito, e non c'è nulla di male a pensarlo, come non c'è nulla di male a pensare la cosa opposta. Certo è, chi ha avuto ruoli di potere nel paese negli ultimi 30 anni, per esempio D'Alema, tra questi, non mi sembra che abbiano fatto il bene del paese. Ma non che Renzi sia un pivello a questo punto, perché ha fatto il presidente della provincia, il sindaco di Firenze, il segretario del PD, il presidente del consiglio. Confermo, infatti Renzi ha avuto la sua opportunità e per me dovrebbe entrare anche lui nel dimenticatoio del paese. Va bene, grazie, buona serata Maurizio. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La discussione di queste ore, direttore, non è più sui risultati del governo o dei governi di centrosinistra, è sulla simpatia e antipatia. Cioè tutti sono a dire, sì, però Renzi c'ha un caratteraccio. Ma ho capito, c'ha però il caratteraccio. Qui c'è Agnese, può confermare tranquillamente c'è caratteraccio. Ma una volta che hai detto che c'ho il caratteraccio, mi puoi dire concretamente su quali argomenti vuoi discutere per il futuro dell'Italia? Davvero toscano, c'ha il caratteraccio. Però alla fine le cose che vuole le porta in fondo, quindi io preferisco uno che combatte a uno che no. Beh, visto che lo avete citato tutti, Renzi, mentre parlavamo del candidato segretario del PD ad Ancona e del suo video definito da qualcuno omofobo, ma che omofobo forse non è, vi abbiamo fatto sentire Renzi alla Versiliana e sul suo caratteraccio e anche Agnese. Andiamo con Stefano da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo dare il mio contributo per quanto riguarda i lavaggi auto, a sì. Roma specialmente. Sì. Allora, visto che io sono una persona molto attenta ai consumi di acqua, da lavoratore, diciamo, ho fatto l'ispettore per una grande banca, mi sono andato a fare un giretto a capire che cosa c'è dietro questi lavaggi auto che sono sorti come funghi negli ultimi 5-6 anni. Vorrei dare una notizia che praticamente sicuramente le forze dell'ordine lo sanno. Questi lavaggi auto, così la sappiamo anche noi, vai. Fanno parte di un giro mafioso. Un giro mafioso, i mafiosi egiziani in contatto con la mafia italiana praticamente. Ma prende... tu parli, Stefano, parli di quelli a gettone, quelle cose lì senza personale? No, assolutamente. No, perché ci sono delle auto. Parlo di quelli che sono sorti nei garage, nei box sulla strada, nei negozi su strada, con tanto di passo carrapide, praticamente che occupano 3-4 posti di parcheggio. Non lo so a cosa ti riferisci, io ne ho presente in mente due: ci sono le stazioni di servizio dove ti lavano l'auto e poi ci sono dei posti dove sono solo degli autolavaggi senza personale, si fa tutto con le monetine, e quella è un'altra modalità che io conosco. Tu invece ti riferisci ancora a un'altra modalità? E mi hanno assicurato che c'è la mafia dietro, ragazzi. Vabbè, egiziani. La mafia. E quindi... vengono, queste persone sì. vengono pagate 30 euro al giorno sì. per 20 ore di lavoro, 18-20 ore di lavoro, e mentre praticamente ogni 4-5 mesi cambiano gestore, perché praticamente fanno una specie di fallimento e praticamente se ne va via il vecchio e la mafia dà in gestione a quello nuovo. Però se scusa Stefano, devi circoscrivere la notizia, perché a cosa ti riferisci? Perché qua stai dicendo una cosa pesante, stai dicendo che c'è la mafia egiziana dietro gli autolavaggi, ma quali autolavaggi? Cioè se io vado a lavare la macchina all'Agip, c'è la mafia dietro? Praticamente andiamo a vedere a Roma quanti sono gli autolavaggi non in mano, non gestiti da egiziani, e poi capirete qual è il motivo. Va bene Stefano, ci hai dato una parvenza di notizia, va approfondita sicuramente. Se fosse vera, a maggior ragione non laviamo la macchina all'autolavaggio, però mi sentirei di dire che questa cosa che dice Stefano io non mi sentirei di appoggiarla del tutto, di avallarla del tutto. Può darsi che ci siano queste stazioni che sono sorte senza marchio, senza nulla, però c'è anche poco personale, quindi non so di cosa parli quando parli di sfruttamento di persone, perché altrimenti la macchina dove la lavi? Vai all'Agip, vai all'IP, vai a dove ti pare, insomma, e c'è anche l'autolavaggio, quelle fanno parte di quelle case lì, quindi non capisco come possa essere entrata la mafia solo in quel business lì, Stefano. Va approfondita questa cosa qua. Ma verrà fuori sicuramente che c'è già stata una puntata delle Iene che ha parlato di questo. Vai a vedere, sicuro. Lino da Catanzaro. Buonasera, chiamo dalla Camera da Catanzaro e volevo parlare in merito a quello che sta accadendo. Sì. Intanto a Cosenza abbiamo quasi il 60% di perdita della rete idrica della città di Cosenza, però malgrado ha un ottimo sindaco che sta lavorando alla grande per questa rete, ma è una rete che si parla di 40 anni, 50 anni di perdita d'acqua nelle reti delle città capoluogo di provincia. Quindi intanto noi cerchiamo, cioè anche diciamo si fa una battaglia per far risparmiare i cittadini, dove dicono voi dovete risparmiare, non lavate la macchina, evitate di tirare lo sciacquo più volte, tutte le cose di questo mondo che sono, possiamo rispettare anche l'ambiente, tutti quelli che parlano sì. in questa maniera, ma io credo che la lotta va fatta principalmente all'interno dei comuni, delle regioni, Addirittura noi abbiamo seguito ieri o avantieri sera Report, dove parlavano che i gestori, quelli che gestiscono l'acqua, la pagano 4 soldi. Addirittura ci sono regioni dove non pagano assolutamente nulla per gestire l'acqua e la vendono a... No, no, è vero, allora, su questo hai ragione. Lino, lo ha detto anche il rappresentante di Lega Ambiente, a onor del vero, ha detto che a Roma c'è una dispersione nella rete idrica del 44%, ha dato lui questa cifra, che vuol dire che praticamente metà dell'acqua che circola si disperde, e questo è una responsabilità dell'ente che gestisce, l'ACEA, e su questo non si discute. Poi ha voglia di risparmiare l'acqua mentre ti lavi i denti, ma se la metà dell'acqua se ne va nell'acquedotto così, non ci puoi far molto. Resta che ci sono degli sprechi che andrebbero limitati, anche questo però va detto, no Lino? Vedi, c'è un altro problema grossissimo, sì. C'è stato a Nicosera, ci sono state le rivolte in merito all'acqua che dall'anno scorso, estate 2016, ancora fino a qualche mese fa, la Sorical, che è la società che gestisce le acque in Calabria, malgrado stanno lavorando, si impegnano, malgrado tutti i problemi di questo mondo, anche perché devi sapere che i comuni, nelle regioni, ma principalmente in Calabria, non pagano come devono pagare anche le società che gestiscono, e quindi diventa difficoltoso anche recuperare da parte dei gestori, in questo caso per la Calabria, la Sorical l'acqua, e quindi i comuni sono indietro perché la gente è collegata abusivamente. Voglio dire, c'è un lavoro certosino da fare, dove credo che la responsabilità sta al 50% verso le regioni e le province e le città, ma anche l'altro 50% di quei cittadini che spesso sono collegati abusivamente nelle case al mare, che scaricano al mare. Va bene, devo chiudere. Grazie Lino, grazie, buona serata. Grazie anche ad Andrea Spenuso, Matteo Ramelli, Cristian Goldoni in redazione, Andrea Roccabella in regia. Ci risentiamo domani 18:20 con Si può fare. Ciao, buona serata da Alessio Maurizio. Ciao.